buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete sempre in onda sulle frequenze di questa magica radio e in particolar modo della magica puntata di stasera di 451 intersezioni. Per coloro che si fossero messi in ascolto solo casualmente o la prima volta in questa fascia oraria, ricordiamo a tutti appunto che questo nuovo progetto radiofonico partito a settembre del 2014 è una sorta di continuazione, un filo rosso che abbiamo cercato di portare avanti della trasmissione Intersezioni che era condotta qua a Radio Città Fujito dal nostro amico nonché compagno Pier Antonio Pezzinga, che ci ha lasciato lo scorso anno e ormai tra circa un mese ci sarà l'anniversario della sua scomparsa e sicuramente faremo qualcosa di speciale collegato a questo momento purtroppo molto triste che ci ha attraversato come amici appunto stretti di Pier Antonio come compagni, ma anche rispetto a tutti i conduttori di questa radio. E 451 intersezioni è una sorta di prosecuzione di quel percorso, ovviamente declinata secondo le nostre attitudini, i nostri interessi, le nostre diciamo qualità radiofoniche, che erano sicuramente anche differenti da Pier Antonio, ma accomunate da questo linguaggio comune connesso alla sperimentazione, alla ricerca sonora, spaziando un po' su vari universi sonori di genere e anche andando oltre al genere come faceva Pier Antonio, ma forse noi siamo un po' più connaturati e collegati a un'idea più connessa all'elettronica che Pier Antonio attraversava solo in parzialmente insomma rispetto alle sue trasmissioni, ma sicuramente cercheremo di non farlo arrabbiare che sicuramente ci sta ascoltando. E 451 fa parte Intersezioni, fa parte del progetto collettivo 451 che include anche lo spazio 451 Frammenti Sonori, che viene onda sempre il mercoledì su Radio Città Fujiko da mezzanotte alle 2 di notte e di regola di solito viene condotta da Max Macchia, come farà mercoledì prossimo, mentre io, il sottoscritto Elisio Scarpa, conduce lo spazio del lunedì sera dalle 20 alle 21, 451 intersezioni. Bene, dopo questo preambolo che alle volte ciclicamente faccio per ricordare ovviamente l'idea e il progetto radiofonico di 451 intersezioni, andiamo a calarci subito nella puntata di stasera, che è una continuazione di una puntata che abbiamo già realizzato all'interno di 451 intersezioni a novembre scorso, dedicata a questo progetto collettivo seminale, questo caleidoscopio di sperimentazioni estremamente aperte e legate a un'idea situazionista e assurdista della musica, Los Angeles Free Music Society, questo progetto collettivo anche estremamente politicizzato, nato negli anni 70 a Los Angeles, che ha costruito vari progetti musicali intersecando vari musicisti e varie collettività all'interno di questa sorta di calderone di sperimentazione, dove avvenivano anche dei veri e propri happening sonori di 2-3 giorni in alcuni stabili, alle volte occupati, alle volte di proprietà o affittati di qualche musicista appartenente a questo collettivo, insomma qualcosa di molto legato a questa idea aperta degli anni 70. E proprio questo progetto, che comunque continua ad esserci anche se ovviamente in forma molto meno ampia di 30 e 40 anni fa, ha realizzato alla fine degli anni 90 uno splendido cofanetto che racchiude un po' la storia di questi progetti musicali di Los Angeles Free Music Society, intitolato The Lowest Form of Music, dove appunto ci sono ben 11 CD e dove viene diciamo inserita un po' una parte ovviamente dell'esperienza improvvisativa e sperimentale di questo collettivo. E apriamo appunto il secondo capitolo di Free Music Society, la puntata appunto già mandata in onda su Radio Città Fujiko a novembre scorso, il secondo capitolo aprendo con una delle formazioni cardine di questa idea collettiva di Los Angeles Free Music Society, e cioè gli Arway. Gli Arway, che è un altro collettivo dentro questo collettivo ancora più ampio, composto da vari musicisti che poi hanno portato avanti, oltre all'esperimentazione all'interno di Los Angeles Free Music Society, anche altri progetti progetti paralleli, soprattutto Chip Chapman, ma anche musicisti importanti come Joe Potts, Joan Gomez e tanti altri, facente parte appunto di questo progetto Arroway, che si muove dentro una sorta di rock sperimentale, sbilenco, obliquo, molto legato appunto a un'idea situazionista e dadaista della musica, e come poi ritroveremo anche negli altri progetti di stasera, con delle caratteristiche e delle peculiarità ovviamente tutte specifiche ai singoli progetti. Intanto apriamo, dopo tanto parlato che vi avrà sicuramente un po' annoiato, con gli Arroway, e preparate appunto a una scossa sonora importante di questo progetto assolutamente seminale per Los Angeles Free Music Society e comunque per tutta la sperimentazione dagli anni 70 in poi che ha attraversato la musica a Los Angeles e negli Stati Uniti d'America. Buon ascolto con Arroway. E siamo rientrati in diretta, anche perché il brano sarebbe continuato ancora parecchio e avremmo occupato più della metà della trasmissione. Una vera bomba energetica questo dei Airway, progetto musicale che ha fatto uscire questo brano, che in realtà è un live in un posto proprio occupato a Los Angeles nel 1978, dunque assolutamente anticipatore di moltissime sonorità e di sperimentazioni di là a venire, e si sente moltissimo chiaramente anche l'influenza del periodo punk che stava attraversando Inghilterra e solo in parte gli Stati Uniti, alcune città in particolare, ma essendo Los Angeles una delle terre, una delle città sicuramente più aperte all'esperimentazione, alle nuove e nuovi linguaggi musicali, era estremamente ricettivo anche di questa tendenza. Ma c'è un aspetto rumorista e noise, oltre che improvvisativo, che poi attraversa gli anni 80, gli anni 90, gli anni 0 di tanti progetti attuali che stiamo inserendo spesso nelle trasmissioni di 451 Intersezioni. Airway sicuramente anticipatori dentro questo flusso sonoro rumorista estremamente energetico, e dentro questo calderone di Los Angeles Free Music Society andiamo a trovare la prossima formazione, il prossimo progetto collettivo, che poi oltretutto aveva all'interno alcuni musicisti che appartenevano anche gli Airway, ma era questa interscambiabilità, questo continuo flusso di musicisti che attraversavano progetti anche estemporanei. In questo caso andiamo a trovare un altro dei progetti cardini di Los Angeles Free Music Society, cioè le Fourth Four, dove appunto è presente anche Chip Chapman, che avevamo già trovato dentro gli Airway che abbiamo appena sentiti, e abbiamo un brano che è tratto dal primo CD proprio di The Lowest Form of Music Society, di Free Music Society, e tratto da Bikini Tennis Shoes, l'album di esordio di questo progetto, le 4-4, del 1975. E qui andremo a scovare tutto l'aspetto improvvisativo, sperimentale, dadaista di le 4-4, che si muovono dentro una sorta di improvvisazione molto minimale, con dei cambi e delle dimensioni d'atmosfera assolutamente spiazzanti, dentro sempre quest'idea dadaista del fare musica con forti provocazioni, con dimensioni assolutamente oblique e sbilenche dentro la costruzione musicale, che sta proprio dentro anche l'idea politica di questo progetto collettivo. Dunque immergiamoci in un'altra forma di delirio, di assurdismo di Los Angeles Free Music Society, con le 4-4, un brano tratto da Bikini Tennis Shoes del 1975. Buon ascolto. Thank you. announced today might sound like this. Oh. direi che è proprio un gran delirio questo brano che abbiamo collegato a un'altra dimensione ovviamente un po' situazionista degli Hardware, che però rimaneva dentro, diciamo, dei colori sonori abbastanza percettibili dagli Hardware, con questo brano minimalista, estremamente piccolo nel suono, ma estremamente elaborato nell'idea, nella concezione sonora. Siamo passati subito invece a questo loop continuo, questa sorta di manipolazione di vinili utilizzate da questo personaggio assolutamente assurdo e improponibile, Dennis Duck. Abbiamo ascoltato questo paperino che veniva continuamente velocizzato, interrotto, messo in loop, appunto una sorta di manipolazione del vinile, in realtà anche manipolazione di nastri, che ha attraversato anche moltissima elettronica. Mi viene in mente subito Philip Jack, uno dei figli dell'elettronica anni zero, che lavora proprio sulla manipolazione di vinili che vengono utilizzati, vinili rotti, dunque con la puntina del giradischi che si intoppa, che crea appunto tutte queste fratture, queste microfratture, questi loop. E Dennis Duck, appunto, che già il nome è tutto un programma, Dennis Paperino, in questo disco uscito nel 1977, sempre da dentro questo caleidoscopio, questo calderone di grande musica e di grande sperimentazione che è stato Los Angeles Free Music Society, ha fatto uscire appunto il suo disco d'esordio. Poi Dennis Duck, che in realtà si chiama Dennis Mehaffley, ha lavorato anche con tantissimi altri progetti fino ad ora, perché ancora tuttora è un grande sperimentatore, ma all'epoca esce proprio il primo suo lavoro nel 1977. Indovinate come l'ha chiamato? Ghost Disco. Chiaramente eravamo pienamente dentro l'esplosione della disco music, e lui ovviamente ha creato questa parodia, questo disco provocatorio dentro appunto questo immaginario collettivo attraversato dalla disco music. L'ha chiamato Ghost Disco e ha fatto appunto questo brano allucinante che abbiamo ascoltato, divertentissimo e assurdo, di un paperino, di questi cartoni animati che si rincorrono con quest'idea allucinatoria, che è assolutamente geniale dentro la progettualità di Los Angeles. E chiudiamo, diciamo, questa piccola parte del delirio, ma in realtà il delirio attraversa quasi tutto Los Angeles Free Music Society, ma diciamo proprio il delirio quasi nominale, il delirio possiamo dire così ufficiale, con il prossimo progetto Foundation Boo, che fa appunto una sorta di ballata con chitarra e piano, una ballata che è una sorta anche di parodia chiaramente di molta musica mainstream, anche e soprattutto certa musica country americana improponibile. Ecco, ovviamente chiaramente è delirante e assolutamente sbilenca, disarmonica, e Foundation Boo in questo brano rappresentano una delle altre facce dell'assurdismo di Los Angeles Free Music Society. E Foundation Boo è questo brano che adesso manderemo in onda, è tratto dall'album Derek Schechter del 1980, sempre di Los Angeles Free Music Society. Il progetto, lo ricordiamo ancora, è Foundation Boo. Ovviamente potremmo dire buon ascolto. Ma prima di buon ascolto mi veniva in mente, poi mi è sfuggito ovviamente nel presentare Dennis Duck, che non so, a me mi ha stimolato molto questo brano del paperino, che mi sembra quasi possa essere una vera e propria colonna sonora del nostro buon Pinocchio, Matteo Renzi al governo. Mi dà proprio l'idea di Matteo Renzi col paperino, e forse anche del governo, ma per buttarla un po' in presa per il culo nei confronti di questo governo allucinante. Chiaramente c'è anche molto di drammatico dentro quello che sta facendo sto governo di vera e propria destra mascherata del centro-sinistra, ma il paperino mi ricorda un po' il personaggio Renzi che gira spesso in televisione, gira un po' dappertutto, no? Che parla anche velocemente in alcuni momenti, mi ricorda un po' questo paperino di Dennis Duck. Chissà se anche a voi vi ha stimolato questa associazione. Intanto godiamoci, parliamo, diciamo così, i Foundation Boo. Buon ascolto. Thank you. Foundation Boo, dunque abbiamo ascoltato e ricordiamo anche i componenti di questo progetto collettivo. Ritroviamo proprio Dennis Duck, ma anche Fredrik Nielsen, Kevin Leffey e Tom Rekion. Tom Rekion è un personaggio che negli anni zero ha continuato a portare avanti sperimentazioni assurdiste, uno dei nomi più conosciuti, diciamo, della scena di Los Angeles Free Music Society, anche appunto in questi ultimi anni. E Tom Rekion è stato anche uno dei fondatori del progetto collettivo Los Angeles Free Music Society, e lo ritroviamo proprio dopo i Foundation Boo che abbiamo appena ascoltato nel prossimo lavoro che chiuderà il nostro cerchio di stasera come secondo capitolo di Free Music Society. Avremo sicuramente un terzo capitolo finale, sicuramente, credo, almeno sicuramente, l'ho detto già 10 volte, tendenzialmente, allora usiamo sto termine, verso la fine della stagione radiofonica di quest'anno. Dunque sicuramente tra maggio e giugno ci sarà ancora il terzo capitolo finale per ascoltare altri progetti di questo incredibile calderone di sperimentazione dadaista e assurdista di Los Angeles Free Music Society. E andiamo a concludere proprio con Tom Rekion, un lavoro che si muove dentro una sorta di jazz cinematica. Cosa intendo dire? Una forma jazzata estremamente esotica, suggestiva, queste con richiami molto forti a colonne sonore degli anni 60-70 che hanno attraversato anche molti ricordi di tanti ascoltatori, di tanti musicisti che conoscono certe colonne sonore. Basta citare arie e dimensioni e ballate come quelle di Ennio Morricone in Italia o tanti altri compositori. Ecco, Tom Rekion recupera un po' quelle atmosfere creando una sorta di dimensione tra sogni e realtà con richiami molto suggestivi. È una delle sue caratteristiche che ha portato avanti dall'esperienza degli anni 70 di Los Angeles Free Music Society, anche successivamente e ancora adesso con gli ultimi lavori che ha fatto uscire. Io vi ricordo chiaramente, prima di mandare quest'ultimo brano, che 451 Intersezioni sarà sempre presente anche lunedì prossimo dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Città Fujiko, e vi ricordo anche che 451 Frammenti Sonori, la trasmissione gemella di 451 Intersezioni, sarà in onda sempre su Radio Città Fujiko mercoledì prossimo da mezzanotte alle 2, condotto sempre dal buon amico e compagno Max Macchia. Io vi lascio con le ultime note, con questa atmosfera suggestiva di Tom Rekion, per chiudere questo nostro secondo capitolo su questo incredibile progetto che è ancora in piedi, anche se in forme molto più limitate e molto meno importanti come lo sono state invece tra gli anni 70 e 80 come progetto collettivo Free Music Society. Buon ascolto dunque con Tom Rekion, vi lascio agli ascolti e alle musiche di Radio Città Fujiko dopo 451 Intersezioni. Buona serata. Written and composed by E.P. Christie. Nancy. Sitil, the favorite Ethiopian melody. Dying girl, grave of Lilydale, how softly on the bruised heart, lost flowers. There is simplicity and sweetness in the compositions of this child of misfortune that renders them always acceptable to the lovers of melody. Churchyard. What is home without a mother? Wait for the wagon, a new Ethiopian song and melody, and especially dedicated to the various Ethiopian bands of the U.S. As arranged and sung by them in New York and other cities of the Union. Sung by Kunkel's Nightingale Opera Troupe. A tombstone on dear old mother's grave. The pardon came too late. The picture that is turned to the wall. Her father has turned the dear picture again.